vite. La mia nave è legno antico, porta ancora l'odore di te. A te che ho lasciato sola nel mondo, ascoltami. Dovevo partire a fare l'uomo, dovevo provare a far da me, navigare sotto in cielo per ingannare gli stregoni, cambiando le ombre del destino, cercando quel senso che non c'è. Sono un uomo, sono un re, prendo tutto ciò che c'è, primo e ultimo nel mondo scopro che in ogni attimo di vita io scelgo te. Seguendo le strade del ritorno, ognuna a suo modo mi ha incantato, crepando certezze dentro me. E sono un uomo, sono un re, prendo tutto ciò che c'è, primo e ultimo nel mondo scopro che in ogni attimo di vita io scelgo te. Ora innamorata come allora, per ogni istante che rimane, rubare il tempo insieme a te. Sono un uomo, sono un re, prendo tutto ciò che c'è, primo e ultimo nel mondo scopro che in ogni attimo di vita io scelgo te.